però. Ok. Aspetta. Lascialo pure andare. Tanto. A me è attaccato. Un attimino la serata, cioè senza entrare nel dettaglio, la serata è organizzata dallo spazio Edo, che è quello spazio che avete visto qua sotto con i libri, è un po' l'infoshop se volete del Molino. C'è la nuova riapertura, cioè riapre ogni anno e si fanno ogni anno le inaugurazioni. Quindi anche quest'anno abbiamo fatto un'inaugurazione, questa è la prima attività del nostro, cioè dell'anno, diciamo. Lo spazio Edo è lo spazio dove c'è appunto ci sono i vari libri che sono aggiornati regolarmente. Se vi interessa potete iscrivervi alla lista mail che è questa, così ricevete le varie notizie riguardo alle attività che facciamo, una serata come questa, piuttosto che, non so, sulla piazza finanziaria ticinese o altre cose che sono in cantiere. E potete anche abbonarvi a una piccola tessera che abbiamo inventato quest'anno. Con questa tessera, se voi pagate 50 franchi, potete prendere 5 libri che ci sono all'interno dello spazio di qualsiasi prezzo. Quindi è un po' la novità dell'anno per invogliare la gente a leggere. Questa qua è la trovata consumistica dello spazio. Lo spazio Edo è aperto tutti i giovedì dalle 6 alle 8, più chiaramente le attività come questa che sono fatte, più o meno sporadicamente. Dunque, questa sera abbiamo pensato di aprire un attimino la stagione, diciamo, col botto, facendo una serata sul movimento Cellino in generale e poi nello specifico. Dunque, il primo intervenente è Guido Bernasconi. E devo dire la verità, è tutto il giorno che penso che al momento della presentazione mi sarebbe scappato che fa parte del movimento Cellino. Invece no, è membro, non di Comunione e Liberazione, ma dei Liberi Pensatori, l'associazione svizzera, che in un primo momento presenterà, cioè con un'introduzione diciamo a grandi linee, quello che è il movimento Cellino e quello che comporta il fatto di aderire a questo movimento, come organizzato, come funziona. Mentre in un secondo tempo ci sarà Francesco Monsaver, che è giornalista di Aria, un settimanale per chi non lo conosce di politica sociale, ma credo che se siete al Molino, se bene o male, avete più o meno in mente cos'è Aria, che ci parlerà più nello specifico del funzionamento di questo movimento a livello ticinese, quindi il movimento Cellino a livello locale. Per l'occasione, quando siamo andati col gruppo Edo a fare gli acquisti per i libri, abbiamo preso anche questo libro di Enrico D'Alessandri, Comunione e Liberazione, che parla del movimento Cellino in Italia. Quindi se vi interessa, abbiamo ancora solo 3 esemplari perché gli altri sono già andati a Riva. Comunque, la situazione è questa. Dopo la loro presentazione ci sarà un momento di dibattito, ci sarà una presentazione che durerà più o meno un'oretta perché la concentrazione generalmente non tiene più di un tot, l'abbiamo studiato. Quindi dopo questo primo momento ci sarà un dibattito, discussione, domande, quello che volete. Quindi all'inizio un non stop, un po' cattedratico, stile università, e dopo tutti possono dire la loro. Quindi vabbè, vi auguro buona serata. Come? Grazie. Allora, buonasera. A me tocca aprire la relazione su comunione e liberazione. Può essere anche un po' curioso che sia un libero pensatore che parla di questo movimento che si trova esattamente all'opposto del nostro. Noi liberi pensatori siamo degli individui sparsi che hanno le loro opinioni molto differenziate. Abbiamo origini ideologiche a sinistra e anche a destra, insomma siamo un gruppo misto che non costituisce un tutto unico, come invece fanno loro. Noi abbiamo però in comune questo, che abbiamo il culto della libertà di pensiero e di espressione, che siamo per la libera circolazione delle opinioni, qualsiasi esse siano, anche se poi le opinioni possono essere molto diverse, ma almeno se ne può dibattere. Quelli di comunione e liberazione sono invece un gruppo compatto, coeso, fortemente unito. E che cosa li caratterizza? Li caratterizza lo spirito religioso. E allora qui io vorrei dire qualche cosa a proposito delle religioni e della religiosità. C'è una religiosità che può essere intesa come naturale, vale a dire quella che viene nella testa di alcuni ponendosi le grandi domande, le domande esistenziali che possono essere che da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, qual è il senso della nostra vita. E taluni dicono, beh, c'è sicuramente una forza superiore che ci domina, che ha creato tutto, nella quale noi ci perdiamo, una entità inconoscibile, irraggiungibile. Bene, questa religiosità a me francamente non dà fastidio, perché non riunisce le persone, non le conglomera, non le compatta, lascia a ciascuno la libertà di scelta della propria entità superiore, che potrebbe essere per esempio il grande architetto dell'universo per taluni, ma non è per me. C'è l'altra religiosità che invece quella è pericolosa e nefasta, come è stato dimostrato nella storia, ed è quella che ha come riferimento la rivelazione. L'uomo non può, nella sua insignificanza, nella sua miseria, raggiungere il Dio. No, non può. Ma il Dio, che è onnipotente, l'uomo lo può raggiungere e gli si comunica. E quindi ecco qui arrivano le rivelazioni, e di religioni rivelate noi ne abbiamo qui nella zona del mondo in cui ci troviamo almeno tre: quella ebraica, quella cristiana e quella musulmana, l'una prendendo qualche cosa dall'altra. Naturalmente che, a non averne dubbio, non c'è nessun Dio che comunica con gli uomini, ma alcuni uomini si inventano il Dio che comunica con loro. E questo gioco è chiaro, è la ricerca del potere che il Dio può dare, anche un Dio inventato, perché naturalmente quando uno dice Dio mi ha parlato e mi ha comunicato questo, questo e quest'altro, se viene contraddetto dice tu non offendi me, ma offendi chi mi ha parlato, e quindi sei un sacrilego. Bene, quel che lei. Che cosa comporta la rivelazione? Comporta che vengono dette delle verità, e poiché il Dio le ha dette, sono incontestabili. Comporta delle norme comportamentali, la morale, e poiché il Dio le ha date, sono inoppugnabili, devono essere assolutamente rispettate. E così c'è naturalmente una serie di riti di ingresso, di consacrazioni, di sacramenti per i cristiano cattolici, per cui uno entra a far parte della organizzazione, della Chiesa, via, dell'assemblea di Dio. E poi infine ci sono ancora due cose, e una è la missione che ogni credente che è stato raggiunto dalla rivelazione ha, ed è quella di diffondere il messaggio divino. Quindi ognuno è in fondo un missionario, è il compito specifico che hanno i membri della Chiesa. Infine, questa Chiesa, che costituisce un corpo solo, e i cristiani, ancora nei loro testi recenti, dicono che la Chiesa è un corpo mistico che è formata da una parte umana, un tutto unico, ed una parte divina che è il Cristo, la seconda persona della divina monotriade. E allora ecco che tutto questo ha come prospettiva il ritorno a Dio e a formare un tutto unico col Dio. Cose bellissime naturalmente, solo che comportano che chi sta dentro è nel giusto e chi sta fuori è nell'errore, e guai a stare fuori. In fondo non si può star fuori perché non si avrà la salvezza, e la Chiesa Cattolica lo dice chiarissimamente che fuori di essa non c'è salvezza. Solo si può salvare chi, non essendo stato raggiunto dal messaggio evangelico, non per sua colpa, lo ignora. E allora loro si danno da fare in modo che tutti vengano raggiunti, per non poter dire: ma io non sapevo. E quindi chi sta fuori è destinato alla dannazione. Bene, questo è un po' di catechismo, se volete, ma è quello che loro dicono e che loro fanno circolare. Questo che io dico non è il pensiero degli integralisti ciellini o di altre organizzazioni similari come l'Opus Dei, no, è il pensiero della Chiesa. I ciellini sono il distillato del buon cristiano, ed è per questo che sono estremamente pericolosi, perché nella loro voglia di essere al servizio di Dio, del loro Dio, sono disposti a qualsiasi cosa. Fra l'altro hanno anche il dovere di venire a testimoniare il Cristo nella società temporale, essere lì vivi, partecipi, attivi. E di più, quando se nella società temporale vi sono delle autorità che vanno in contrasto con le norme della Chiesa, allora i fedeli devono pure contestare l'autorità civile, perché quella è subordinata per natura alla volontà divina. Beh, insomma, noi abbiamo questi che, quando viene bene, tentano di impadronirsi delle leve del potere, anche di quelle dello Stato, e se non va bene contestano anche quelle, eventualmente per poterle modificare. Bene, ora io non voglio fare molto, molto lunga, ma però dovrei dire qualche cosa a proposito della fondazione di questo, della nascita di questo movimento. E quando è stato? Io mi ero scritto tutto qui, ma dopo sarebbe una pappardella leggerla, quindi cerco di stringare se posso. È stato in un periodo storico che è venuto subito dopo il secondo dopoguerra, loro dicono che è stata fondata nel 54, ma non è propriamente vero. Nel 54 il Giussani si era instaurato in un liceo che mi pare si chiamasse Berchet, e lì aveva posto le radici per estendere il controllo suo, della sua organizzazione, perché man mano si è dilatata, sugli studenti, perché sono le forze nuove. Ah, e torniamo al fatto che noi usciamo dalla Seconda Guerra Mondiale e ci sono quindi le vecchie generazioni che hanno vissuto sotto il fascismo e che ne sono condizionate, e poi ci sono le nuove generazioni. Fra l'altro la popolazione in Italia in quel momento è scossa da questo fatto: hanno trovato la libertà perché si sono liberati dal regime fascista e sono usciti da questo terribile periodo, tra l'altro caratterizzato da una guerra crudele che ha segnato crudelmente l'Italia. Ebbene, la gente dice: abbiamo la libertà, oh, finalmente. E la libertà si traduce in che? Soltanto in una formalità, in fondo, perché la libertà è la libertà delle libere volpi con le libere galline, e il potere rimane nelle mani di chi controlla l'economia, tra l'altro con l'aiuto ovviamente di capitali esteri, perché l'Italia è ridotta malamente, però così ridotta malamente che ci sarebbe un'enorme possibilità di lavoro, invece no, perché noi vediamo che proprio in quel periodo lì molti italiani sono costretti a prendere le valigie e a emigrare. Bene, intanto cosa succede però di importante in quel periodo? Le donne votano nel 47, per la prima volta votano, e quindi partecipano e entrano, sono chiamate a una compartecipazione alle decisioni, tra virgolette, naturalmente, perché il sistema parlamentare non è che dia molto se non la facoltà di delegare il potere ad altri. E però c'è anche una corresponsabilizzazione. Quindi le donne costituiscono una parte importante, veramente quando votano per la prima volta votano per quello che dice il parroco, purtroppo, ma insomma le cose vanno così. Ma c'è un'altra cosa che è interessante in quell'epoca lì, sono i nuovi, le nuove generazioni, che naturalmente hanno qualche motivo per contestare quella vecchia che è stata sotto il fascismo e che ha subito, e poi che occupa ancora dei posti che dovrebbero farsi liberi per quelli che arrivano adesso. Ci sono anche delle questioni generazionali in mezzo. La cosa significativa in quel periodo lì però è che i giovani scoprono che c'è anche un'altra morale oltre a quella religiosa, una morale soprattutto che riguarda il comportamento sessuale, perché è un settore importante dove la Chiesa ha molto da dire. Cosa circola in quel tempo? Comincia a circolare. Circolano i mezzi anticoncezionali e soprattutto la pillola. E questo per la Chiesa è insomma estremamente scocciante, perché il peccato più diffuso è quello che la Chiesa ha interesse a mantenere, perché estende il controllo su tutti, perché nessuno sfugge a questo peccato, è il peccato del sesso. E se noi facciamo correre l'idea per cui il sesso non è più peccato, in fondo il libero amore è una cosa naturale, accettabile, ecco che la gente, non sentendo più la colpa e la vergogna, non va più a confessarsi, non va più dal prete, non è più sotto il controllo del prete. È una cosa che vi sembrerà in fondo poco significativa, però succede un fatto curioso che io ho accennato al mio amico qui quando ci siamo parlati al telefono. Nel 1966, lontano nel tempo, Alcuni studenti di un liceo che si chiama Parini a Milano pubblicano un giornaletto, come avviene in altri istituti studenteschi, licei, no? Un giornaletto che si chiama La Zanzara. E sulla Zanzara appare un'inchiesta, modesta inchiesta fatta nell'istituto per sapere cosa pensano i giovani del sesso, che cosa, come si pongono davanti a queste faccende. In fondo i primi pruriti cominciano poi lì, in quell'età lì, dove uno anche va a cercare la propria identità. Bene. E in questo giornaletto inchiesta escono delle risposte di questo genere. Una ragazza dice, ad esempio, con grande scandalo di qualcuno che legge quelle righe, io non ritengo che la purezza spirituale coincida con l'integrità fisica, intendendo l'integrità fisica, la verginità. E un'altra dice, io ho avuto dei problemi con la Chiesa Cattolica fin quando non ne sono uscita. Boh. Frasi di questo genere hanno suscitato impressione non solo nel liceo, in fondo non tanta impressione lì, ma anche fuori. E qualcuno del liceo Berchet, Luigi Giussani, denuncia questa pubblicazione come oscena, perché rivolta poi a dei giovani, trasmette delle idee che non devono circolare. Cosa succede? I ragazzi vengono convocati, i tre responsabili della pubblicazione vengono convocati al Palazzo di Giustizia. È un episodio, ma è significativo. Convocati al Palazzo di Giustizia e vengono costretti a spogliarsi davanti a un medico e ai magistrati che sono lì ad osservarli. La ragazza naturalmente non lo fa perché prima passano i ragazzi, lei riesce a telefonare a casa e ottiene dal padre l'appoggio necessario per non sottoporsi a questa umiliazione, a questa intimidazione. I due ragazzi sono lì e si vedono porre delle domande del genere, che so io, ma nella tua famiglia non è che ci sono dei casi di sifilide, insomma cose del genere, proprio nell'intento di creare imbarazzo, timore, insomma, no? E alla ragazza dicono anche, scusate nel senso, entro un po' nel dettaglio, ma domanda uno, ma tu fumi? E lei dice, no, non fumo. Ah beh, allora non sei così corrotta come si potrebbe pensare da quello che hai scritto nel giornalino. Insomma, c'è questa attitudine qui. La sparata del prete, però, ha un effetto, un tiro che esce dalla culatta. Perché? Perché nel paese suscita un subbuglio. Vengono processati, fra l'altro, incriminati e poi processati, i tre ragazzi, il preside del liceo Parini e la titolare della tipografia, questi due, perché non hanno fatto il controllo del contenuto della pubblicazione. Ben, il processo avrà un esito per cui i cinque sono assolti. Che cosa succede però? Succedono due cose. In tutta Italia, è lì che è successo, i ragazzi vengono confrontati col problema della libera circolazione delle idee anche a mezzo stampa, che fra l'altro era promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione. E di più, è l'argomento che è poi sulla bocca di tutti. Finalmente si scopre che tutti hanno i medesimi problemi e ne vogliono discutere. Siamo nel 66 e dalla discussione sulle questioni così di morale sessuale si passa poi alle discussioni sulle questioni sociali, politiche e sociali. E arriva in 448 il 68. Noi non possiamo dire che questo, lo scandalo del Parini sia stata la scintilla che ha dato fuoco al pagliaio, però ha contribuito notevolmente perché c'è stata una scossa generale. E il 68 poi ha dato quello che ha dato, nel senso che poi i tempi passano, i giovani che contestavano gli anziani anche per ragioni generazionali e per bisogno di sostituirsi a loro, di prendere il loro posto, invecchiano e arrivano altri giovani dietro di loro che non contestano più i genitori, ma contestano solo i fratelli maggiori. Insomma, si crea quel casino che noi abbiamo conosciuto. All'estrema sinistra non c'è un rientro dei giovani nei partiti, un'entrata nonché rientro, un'entrata dei giovani nei partiti di sinistra, e a destra neanche tanto. Sono questi gruppuscoli da una parte e dall'altra, non si inseriscono e poi si disperdono e succede quel che succede. Ma i ciellini, quelli rimangono, perché hanno un fortissimo legame, che è quello della fede, che gli altri non hanno, perché non sono fideisti. E i ciellini si diffondono e si rafforzano, vengono chiamati un po' paradossalmente gli estremisti di centro, oppure, come appunto è poi successo, gli extraparlamentari della DC, che poi extraparlamentari non sono poi tanto, perché il loro leader laico, Formigoni, no, entra nella politica in modo vivace, vigoroso, e dunque lui è in Parlamento subito come deputato indipendente della DC. Poi crea un movimento popolare, riesce ad andare al Parlamento europeo e tac tac tac nel 95 diventa governatore del 95. Eh sì, nel 95 diventa governatore della regione Lombardia. Bon, ma non è solo quello che succede. Sotto la direzione di Giussani, il quale Giussani fra l'altro ha anche un merito, insomma è un personaggio, ha il carisma, ha l'abilità dialettica, ha una discreta intelligenza evidentemente, ha la capacità di suscitare l'entusiasmo, di stimolare l'energia nei suoi giovani, insomma è investito di quella potenza divina che gli altri gli riconoscono, anche se lui non ce l'ha, ma gli altri credono che l'abbia. Ben, che cosa fa? Manda gli agenti di CL dappertutto, li infiltra, come d'altra parte fa anche l'Opus Dei, perché sono due movimenti estremamente vicini, paralleli. Manda questi agenti dappertutto, quindi dentro nelle istituzioni, nelle commissioni, nella stampa, ci sono dappertutto. E naturalmente agiscono come una organizzazione quasi militare, tant'è che loro fanno poi i famosi voti, quelli che entrano in CL. Beh, oltre a un certo livello li mantengono anche, sono strettamente vincolati, soprattutto quello della castità. Beh, la castità nei livelli più bassi non è così rispettata, ma però quello dell'obbedienza sì, e quello della povertà relativa sì, perché poi a un certo livello di CL loro hanno delle casse comuni, si organizzano in piccoli gruppi fino a 10 mi pare, ma possono essere anche minori, e hanno un capo, cioè hanno un'organizzazione capillare ma estremamente gerarchizzata. Insomma, loro arrivano dappertutto e noi lo vediamo. E visto che fanno un po' il bello e il brutto tempo, possono anche approfittare delle posizioni che hanno per arrotondare i bilanci del movimento e che so io, giocare sugli appalti, sulle forniture che vengono fatte dallo Stato alle, per esempio agli ospedali, nel settore sanitario. Il loro forte è il settore sanitario. E loro puntano anche su una cosa, e questo anche a livello istituzionale è importante, sulla sussidiarietà. Vale a dire, sì, lo Stato è bravo, fa tante belle cose, però è la società civile che deve vivere, e quindi loro cercano di stabilire dei rapporti tra istituzioni pubbliche e associazioni di diritto privato, se vogliamo dire, organizzazioni tipo non lucrative, così. Insomma, fanno una rete di potere che sta crescendo, è ormai quasi incontrollabile. Il difetto di questa organizzazione però sta in che cosa? È che diventando così potente attira un mucchio di persone che con la fede e la religione ha poco a che fare, e arrivano i profittatori, i ladri e così, che naturalmente si combinano molto bene con quelli che stanno dentro, perché in fondo si dice, beh, noi siamo nel giusto e gli altri sono dei briganti, beh, a brigante, brigante e mezzo, e quindi loro sono dei briganti superiori agli altri. Bene, la mia relazione si può concludere qui. C'è una cosa, ed è questa. Voi direte, e con tutto questo che risposta noi possiamo dare per arginare questa invadenza, questa piena che sembra inarrestabile? Che cosa possiamo fare? Beh, sarebbe un po' poco se noi dicessimo, ma limitiamoci a denunciare le porcherie. Perché quello che non va è alla radice, è il fatto che ci siano delle persone che, forti di questa loro potenza, possano poi imporre a tutti delle norme comportamentali, morali, che sono costrittive e che sono fatte in nome di una fede, ma non solo, con dei richiami a una tradizione, a un magistero, che è quello che nei passati 2000 anni ha provocato lacrime e sangue in tutte le generazioni. La nostra risposta è mettere loro di fronte a questo loro spaventoso orgoglio di pretendere che tutti si debbano rifare ai principi di quella storia, di quella tradizione, di quell'insegnamento praticato dalla loro Chiesa. E questo è tutto. Bene, io ringrazio Guido Bernasconi che per questo intervento dotto, che ha un po' fatto il quadro di cosa sia CL. Io mi limito a un compito più modesto, ossia tracciare una foto, una specie di foto di famiglia degli aderenti a CL che occupano dei posti di rilievo in Ticino. Questo perché spesso si mormora che in Ticino il CL sia una potenza, uno dei centri di potere che viene evocato spesso, però salvo qualche singolo caso puntualmente sui media che appare, vedere tutta la fila di personaggi che occupa dei posti chiave all'interno dei posti di potere ticinesi dà un'idea della forza e della capacità del movimento di poter influire su quello che avviene in questo cantone. Iniziamo con dire quanti sono. Allora, l'unico riferimento che ho trovato è arrivato da un esponente di alto, cioè un esponente noto a tutti di Comunione e Liberazione, ossia Michele Fazioli, ex responsabile dell'informazione della televisione svizzera italiana. Lui ultimamente, in un'intervista a Ticino Life, mi sembra che si chiama, un sito internet, quantificava intorno ai 500-600 gli aderenti a Comunione e Liberazione in Ticino. 5-600 corrisponde più o meno allo 0,2% della popolazione cantonale, quindi poca cosa. Però guardando queste fotografie di famiglia, di questi personaggi dove sono insediati nei vari punti chiave, dà un'idea che insomma contano qualcosa, ecco, in proporzione a quello che sono numericamente, in realtà nei posti che occupano hanno un peso importante. Lui diceva anche che in realtà si poteva telefonare alla sede ICL, che effettivamente è qui in quartiere Maghetti. Io ho provato a telefonare ma non mi ha risposto nessuno, quindi prendo per buona queste 500-600 persone che lui dice. Una cosa vorrei specificare: queste persone occupano dei posti di rilievo chiave, ma sono delle persone molto competenti dal profilo professionale. Sarebbe sbagliato, ingiusto, ragionare in una logica clientelare, ossia che un qualsiasi incapace può finire a quel posto lì perché è semplicemente raccomandato o aderente al movimento. No, sono delle persone che sanno fare bene il loro mestiere, per cui si muovono. Questo va detto perché appunto non è come la solita logica clientelare, sono le persone che sanno insinuarsi e occupare dei posti chiavi e anche farlo in maniera professionale abbastanza bene. Nascerebbe spontanea una domanda: come riescono a influenzare, in base ai posti che hanno, visto che loro hanno questa forte fede, in che modo influenzano direttamente il posto che occupano? Questa è una domanda a cui è difficile rispondere, perché le prove per poter dimostrare che loro agiscano in funzione del mandato del gruppo, del movimento, Comunione e Liberazione che hanno, sono difficili da dimostrare. Però principalmente qua in Ticino si sono concentrati in due campi, sulla spinta direi soprattutto del vecchio vescovo di Lugano, Eugenio Corecco. Lui era il propulsore, diciamo, del movimento CL qua in Ticino, e siccome negli anni 68-70, per dire un po' alla gramsciana, c'era una sorta di egemonia culturale che era di sinistra, soprattutto in Italia, ma anche qua, insomma, tra i giovani soprattutto, perché questo interessava particolarmente il movimento di Giussani. Non per niente ha fondato la prima organizzazione studentesca di CL, era interessato appunto un po' a contrastare questo sviluppo a sinistra. Loro si sono concentrati soprattutto su due settori che formano l'opinione, il pensiero, diciamo. Quindi questi settori sono l'educazione, l'istruzione o la comunicazione in media. Diciamo sono i due campi fondamentali in cui loro hanno fatto carriera. Ripeto, coi meriti, perché non sono persone che non sono capaci a fare quel mestiere. Però evidentemente va anche detto, io ritengo che l'opinione pubblica debba sapere che ci siano delle persone che aderiscono a un certo movimento e che quindi professano una fede, sono convinte, sono portatori, che occupano questi posti, perché per esempio nell'informazione ci si potrebbe domandare in che modo la influenzano. È chiaro a tutti che per esempio il TG3 della Berlinguer è diverso dal TG1 di Minzolini, per esempio, in un modo o nell'altro. Tutte e due sono dei professionisti, fanno informazione in un certo modo, però è chiaro che l'informazione puoi veicolarla in un certo modo. Hai centinaia di migliaia di notizie che arrivano tutti i giorni, tu puoi già solo sceglierle, è un modo in cui puoi influenzare, il modo in cui le presenti, il modo in cui il giornalista le compone con la televisione e la radio. Detto questo, è chiaro che Radio Svizzera Italiana non è Radio Vaticano, è Radio Maria, è qualcos'altro, però in un certo modo influiscono e partecipano a questa dichiarazione. Quindi entrerei un po' nel merito di cioè nella fotografia di famiglia, iniziando. Beh, qui abbiamo il primo esponente, uno dei più illustri. Per anni lui ha gestito l'informazione della televisione svizzera italiana. Un secondo di cui non ho la foto, però vabbè, questo passiamo al terzo allora. Il terzo è Massimiliano Er, ah no, scusa. Il secondo è Bruno Boccaletti, che è responsabile dell'informazione nazionale, sia della televisione che della radio. Quindi un ruolo importante, gestisce tutta l'informazione dell'emittente pubblica per quel che riguarda l'informazione nazionale. Lui in realtà pare che abbia sempre negato di far parte di Comunione e Liberazione, però questo è un altro fatto un po' singolare: un cantone che ha un'alta concentrazione mass mediatica si scrive poco dei CL, sono pochi i casi. Adesso vabbè, con quello che succede con Formigoni, tutti gli scandali, qualcosina di riflesso arriva anche qua, però non è mai stata fatta una vera radiografia, una fotografia di gruppo. Non a caso l'unico che l'ha fatto è un giornalista straniero, un italiano, che per Diario aveva scritto nel 2001 il cantoncellino, descrivendo bene come erano i meccanismi. Era molto ben informato ed erano informazioni perfette. Ritornando su Boccaletti, lui scrisse che diversi giornalisti locali ricordavano il Boccaletti come responsabile di una manifestazione annuale cellina che si tiene a maggio in Ticino. Questo quindi io lo do così, nel senso, si dice che sia di Comunione e Liberazione, ma non è certo. Secondo abbiamo Massimiliano Erber, qui con Bertoli che cozza contro di lui, ma è involontaria. Massimiliano Erber è responsabile dell'informazione locale, regionale, quindi gestisce il quotidiano, gestisce queste cose. Quindi un altro, insomma, un posto abbastanza chiave all'interno dell'emittente pubblica. Vi sono poi altri diversi giornalisti di RSI che sono di area CL, anche se è un po' difficile, perché lì il confine diventa sempre un po' confuso tra si dice area cattolica, poi ci sono gli Opus Dei, c'è Azione Cattolica, c'è CL, però si mormora che la gran parte siano CLini. È vero che se glielo chiedi, normalmente loro te lo confermano, non tutti, però non hanno timore a dirti che ne fanno parte di quel gruppo lì. Però appunto adesso eviterei di tralasciare di dire i nomi di questi giornalisti normali, redattori normali, perché non occupano posti chiave. Visto che ce ne sono abbastanza, andiamo avanti con loro. Passiamo anche a un'altra informazione, che è quella privata, che vabbè, quello è legittimo se si vuole, è il giornale della Curia, il giornale del popolo, Claudio Mesolinà. Per anni anche lui però ha lavorato alla RSI. Non solo, quando è passato dalla RSI al giornale del popolo, ha avuto una clausola speciale che per 5 anni, se il GDP non fosse andato bene, poteva rientrare alla RSI. Non è proprio un contratto che fanno a tutti, succede delle volte, ma non è proprio per tutti. Per 5 anni poi è una durata particolarmente lunga. Claudio Mesonà è uno degli esponenti più di punta del movimento Comunione e Liberazione. Lui era uno anche che ha studiato a Friburgo, viveva nella famosa casa di Gamba, Ruggamba come si chiamava, che era una casa dove vivevano molti CL, e viveva anche il vescovo Corecco a suo tempo durante gli studi, ed è lì che si sono conosciuti. Diversi anni prima di lui, prossima foto, a condurre il GDP c'era Roby Ronza. Lo cito perché ancora lui scrive ancora adesso ogni tanto sul giornale del popolo, ma lui è una vera testa pensante del movimento Comunione e Liberazione. Lui è dalla fondazione ad oggi, fa parte del membro comitato organizzatore del meeting di Rimini, del CL, che è la grande kermesse dove si ritrovano ogni anno. E non solo, lui era anche delegato per le relazioni internazionali e presidente della regione Lombardia Formigoni, quindi molto vicino a quello che viene definito il celeste, ossia il Formigoni, il potere che aveva in tutta la Lombardia. Ecco, dopo sull'influenza, io in questo caso un po' tralascio quello che è l'influenza che c'è stata tra il movimento CL in Lombardia e quello in Ticino, però ci sono degli aspetti che andranno poi in seguito segnalati. Il prossimo, adesso parlo un po' di una carrellata di altri personaggi di Comunione e Liberazione che occupano posti. Lui è il vice di Noseda praticamente, ed è il sostituto procuratore del Canton Ticino, e anche lui è lo danno al 90%, però anche lui non si è mai professato, direttamente non si è mai dichiarato, però lo danno molto vicino, perlomeno, o frequentatore di quello che è il movimento. Poi abbiamo un altro di cui non ho la fotografia, che è il capo della sezione cantonale del lavoro, Sergio Montorfani, anche lui lo indicano molto vicino. Abbiamo nel campo invece sempre privato, però Mimi Bonetti Lepori, che lei, per dire alcuni ruoli che occupa decisamente importanti, sono presidente degli istituti sociali, significa La Fonte, L'Ingrado, Diamante, tutto quello che c'è in Ticino che si muove su questo settore, è presidente di tutte le cliniche private, dell'associazione delle cliniche private in Ticino, che sappiamo hanno un peso molto importante. Era per esempio anche presidente della FOSIT, che era l'organismo che raggruppava tutte le ONG che si occupavano di aiuto all'estero, aiuto allo sviluppo. Non a caso anche il direttore, Claudio, se mi sfugge, anche lui era Comunione e Liberazione, adesso è passato all'Università Svizzera Italiana. Bravo, giusto. Poi, una cosa che, ecco, qui un dentellato ticinese molto importante, quella che si dice che è la cassaforte reale di Comunione e Liberazione è la Compagnia delle Opere, una società che gestisce cifra affari di 80 miliardi di euro, 34.000 imprese e 1.000 aziende no profit. È il vero motore economico e operativo di Comunione e Liberazione. In Ticino è rappresentata da Egidio Centonze, quello della Centonze, quello della Exa, quello della Nafta, quello che adesso sta per gestire l'area di servizio di Coldrerio e altre zone, insomma. Ecco, una persona, insomma, che occupa un ruolo importante qua in Ticino. A fondare una delle componenti importanti di questa Compagnia delle Opere è stato il Banco Alimentare, se volete una sorta di tavolino magico in grande scala, vale a dire che la distribuzione del cibo ai poveri attraverso il recupero di quello che è la grande distribuzione o altre cose. Anche lì è un po' interessante perché la fondò lo stesso Don Luigi Giussani, aiutato da Danilo Fossati, che era colui che ha fondato il Brodo Star, che aveva un bel impero. Ecco, i suoi tre figli vivono tutti a Lugano, attualmente hanno un patrimonio stimato tra 1 e 1,5 miliardi di franchi. Questo per dire che, ecco, sono anche presenti in questo modo. Non si può far ricadere le colpe sui figli dei padri, però è probabile che ci sia un collegamento diretto. Non sappiamo se siano anche loro di Comunione della Liberazione, ma potrebbe essere, ecco, il dubbio rimane. Ferruccio Pinotti, una persona che in Italia ha scritto il libro La Lobby di Dio, ed è uno dei maggiori libri per chi interessa, per conoscere il movimento CL della sua vera forza, soprattutto nella realtà italiana. Beh, lui definisce la Svizzera un ridotto finanziario e la base dell'espansione di CL nell'area tedesca e nel nord Europa. Infatti questo fu il compito di Eugenio Corecco, del Vescovo, e dei suoi giovani amici laici in quel momento, che erano inviati in questo modo come missionari ad occupare posti di carriera in quegli ambiti, soprattutto, che ho ricordato, sia l'istruzione e la comunicazione. Arriviamo all'istruzione. Ecco, c'è lui perché lo cito? Vabbè, ecco, lui è interessante perché Se CL è una forza in Ticino, non lo è com'è in Lombardia. In Lombardia perché? Perché davvero Formigoni per 18 anni ha gestito il potere ed è riuscito a impiantare una macchina per CL veramente impressionante. Basti ricordare quello che è la sanità in Lombardia, dove con i buoni ticket, insomma, ha parificato le cliniche private con gli ospedali pubblici. CL in Italia e in Lombardia rappresenta quasi l'80% delle borse studio, controllano tutto quello che è attraverso delle loro fondazioni, la CUSL si chiama, controllano una marea di cose che riguarda l'università, le dispense, tutto quello che è, insomma sono una forza, ma questo grazie a un uomo che è riuscito a conquistare il potere politico centrale e quindi da lì distribuire tutti gli interessi che aveva. Lui è uno di quelli che ci ha provato, come CL, a tentare di occupare delle cariche importanti dello Stato. Vabbè che è stato braccio destro dell'Amazonia e già lì ha fatto il suo ruolo. Poi vabbè, le altre non ha avuto maggior fortuna, insomma, come candidato a Consiglio di Stato non gli è andata bene, con i liberali, allora è passato alla Lega UDC per provarci ad andare agli Stati, al Nazionale a Berna, ma anche lì non è andata, e adesso ci prova con Area Liberale. Però lui ha una storiella interessante per dimostrare come sia in grado, quando si occupano posizioni di potere, i CL, di poter condizionare anche la vita politica nel loro interesse. A Monte Carasso esiste una scuola, adesso penso che l'hanno trasferita, vabbè, si chiama una scuola elementare, la Caravella, e esiste la scuola pubblica all'elementare. A un certo punto c'erano più bambini del previsto nelle sezioni della scuola pubblica. Si poneva la domanda, per legge si può, mi sembra al massimo 24 allievi, 25 allievi, si sarebbe dovuta formare una nuova sezione. La sezione comportava dei costi per il municipio. Allora la scelta proposta dal municipio di Monte Carasso è stata inviare a tutte le famiglie una lettera in cui si proponeva la possibilità che il comune avrebbe finanziato 5.000 franchi se i genitori avessero scelto di iscrivere i ragazzi in una scuola parificata elementare, l'unica che c'era sul territorio è la Caravella, che appartiene appunto a CL. 5.000 franchi corrisponde esattamente alla retta della scuola privata, la Caravella. Quindi invece di migliorare la scuola pubblica riducendo il numero di allievi, facendo altro, il municipio ha scelto questo. Di fratto, e guarda caso, chi era capo dell'Eticastero scuola del municipio di Monte Carasso? Era il signor Morisoli. La proposta era sua. Di fatto si tratta di un sovvenzionamento indiretto alle scuole private, cosa che il Canton Ticino aveva rifiutato con una percentuale quasi del 75%, se non erro, in maniera sonora. E due anni dopo hanno riproposto questo ticket sovvenzionando le scuole private, che notoriamente in buona parte appartengono all'area cattolica e in buona parte anche in area CL, qua nel cantone gestiscono più o meno 4 direttamente loro. Questo era per dire come lui era responsabile di quel disastero e è riuscito in un certo modo a condizionare una scelta politica e ecco, fare di fatto gli interessi per cui, del movimento a cui lui appartiene. Però non è un segreto per nessuno, infatti non dirò cose sconvolgenti, ma sono tutte persone che bene o male si conoscono. ICL e la loro opera massima sono riusciti a concretizzarla nell'Università di Lugano. Un'università piuttosto singolare, nel senso che non è collegata direttamente allo Stato, è una fondazione a sé, quindi riceve i sussidi dallo Stato, ma si autogestisce in una maniera da fondazione. È pur vero che il responsabile del Dipartimento Educazione siede all'interno, però la maggioranza è composta da altre persone e in buona parte vengono fuori da area CL, non solo, vengono da tutte le zone. Per esempio il segretario generale dell'università e il direttore amministrativo è Albino Sgragen. Lui si sa che appartiene a Comunione e Liberazione, questo non è un segreto. E Vabbè, lui ci sarebbe una storia. Lui viene fuori dalla scuola cantonale di commercio di Bellinzona, dove anche lì l'insediamento di professori di aderenti al movimento CL, soprattutto il nucleo iniziale che era partito con Corecco, era abbastanza cospicuo, diciamo, era una personalità di peso. Questo, per esempio, chi è che hanno? Quando hanno costituito l'università, la facoltà di comunicazione, il decano, ossia il rettore di quella facoltà, era il signor Edo Rigotti, professor Edo Rigotti, CL pure lui. Ce ne sono diversi, evito di dirvi l'elenco di tutti i professori che sono riconducibili perlomeno a area cattolica di sicuro, CL ce ne sono diversi, ci sono anche dell'Opus Dei, qualcuno anche di Azione Cattolica, spero che ci sia, insomma ce ne sono diversi. Come sono riusciti a fare questo all'interno dell'Università della Svizzera Italiana? Beh, il merito è, diciamo, quando c'è stata la grossa discussione, c'è qualcuno che è riuscito a mettere insieme i poteri forti di Lugano in quel momento. Giorgio Giudici lo conosciamo, è il potere forte, massone dichiarato anche lui, senza nessun problema. C'era l'astro nascente della politica in quegli anni, erano il 95, 93, 95, cioè Giuliano Bignasca, che si era presentato col suo movimento e stava riuscendo a, insomma, occupava posti di potere anche lui. Uno dei personaggi forti del movimento delle leghiste di quegli anni lì era Giorgio Salvadè, il medico Giorgio Salvadè, municipale di Lugano a quell'epoca, ed è lui, si dice, che si è riuscito a far riunire questa, a trovare una convergenza fra i massoni e i CL, ossia una cosa che dovrebbe essere onestamente in antitesi l'un con l'altra. Eppure grande Salvadè riuscì ad orchestrare, a mettere un po' d'accordo. Come? Allora, una facoltosa signora di famiglia cattolica mise sul piatto 17 milioni di franchi, perché l'ospedale civico, l'ex ospedale civico, era un po' piccolino per farci l'università, quindi bisognava costruire di più. Mise 17 milioni. Il patto era, e c'era scritto nero su bianco, ci vuole la facoltà di teologia, quella che Corecco aveva creato 2 anni prima in Via Nassau. Quindi l'accordo fu: voi Cellini prendete, voi di area cattolica, soprattutto Cellini, prendete comunicazione e teologia. La facoltà di economia invece va ai massoni, all'ala liberale destra di Lugano. Questo fu l'accordo. Bignasca cosa c'entra? Beh, Bignasca aveva un problema, aveva più di 500.000 di debiti con Lugano, più o meno 200.000 franchi per energia non pagata e 300.000 di tasse inevase. Cosa fecero? Gli dissero: bene, una parte dei lavori di costruzione che faremo, soprattutto la nuova bilsa, ossia gli infissi in alluminio per le serramenti e tutto il resto, lo appaltiamo a te direttamente. La cosa più grave era che c'era scritto, e l'appalto era oltre 1.000.000, 1.200.000 mi sembra. Nell'appalto, nell'accordo che andava a Bignasca, c'era anche scritto che una parte di quei soldi lì sarebbe passato direttamente al Comune di Lugano per saldare i debiti di Bignasca. Questo teoricamente sarebbe contro le leggi. Poi sono riusciti un po' a sviarlo, però era scritto nero su bianco. Adesso non faccio un po' di pubblicità, però il mio giornale fu il primo che anticipò la notizia e rese pubblico questo fatto, dicendo che nell'accordo c'era proprio scritto che Bignasca avrebbe saldato i suoi debiti con Lugano in questo modo. Questo per dire come è nata l'Università di Lugano e come si spiega l'influenza soprattutto del Movimento CL all'interno dell'Università della Svizzera Italiana. Appunto, il grande maestro, uno dei grandi maestri di questo successo fu Giorgio Salvadè, personaggio appunto singolare che di fede cattolica provata, cellino pure lui, che si mise d'accordo con un Bignasca, pregiudicato, condannato per cocaina, all'epoca gestore di un bordello, insomma sembrava un po' strana questa comunanza, eppure riuscirono a mettersi d'accordo, insomma, in questo modo. E Salvadè ebbe un'altra brillante idea. In quegli anni lì sempre stava nascendo quella che si può dire un po' la contestazione giovanile, nel senso l'ambizione di arrivare a un centro sociale autogestito, all'autogestione. Salvadè inventò, senza concorso pubblico, l'ufficio attività giovanili, affibbiando il posto a Claudio Chiapparino. CL pure lui, guarda caso. E se volete, l'ufficio attività giovanili, semplificando un po', doveva essere l'antagonista di chi voleva il centro sociale, dimostrare che a Lugano fosse possibile fare una politica giovanile che smorzasse dal profilo istituzionale, che smorzasse un po' i toni, quella un po' più antagonista, alternativa, insomma, quello che è il Molino. E il suo lavoro, va detto, l'ha fatto molto bene. Chiapparino è una persona che sa fare il mestiere, e non l'ha fatto in maniera chiusa, l'ha fatto in maniera molto aperta, delegando e lasciando fare le persone. Non è che si può dire che ha dato un'impronta puramente cellina al dicastero. Però al tempo stesso vero è che il dicastero Giovani e Venti, nell'ultimo anno di cui è possibile sapere i dati, ossia 2011, ha creato un piccolo impero. Il conto che gestisce è 4 milioni per quel che riguarda solo il Dicastero Giovani e Venti, a cui si aggiungono negli ultimi due anni 15 milioni commissionati dall'ufficio del municipio di Lugano per la gestione di quello che è l'integrazione del lavoro, misure anticrisi e quel che sia. Insomma, una cosa molto un po' nebulosa, ed è qui che magari riusciamo a trovare qualche traccia di come Chiapparino, ricordo, lui il suo dicastero organizza 650 eventi all'anno, quindi fa di tutto e di più, non è che si può dire che faccia solo CL, anche perché sarebbe stato ingenuo da parte sua fare solo CL, ci sarebbero alzate le critiche, sarebbe stato immediatamente attaccabile. Dall'altra parte è pur vero che, per esempio, con questi 15 milioni di franchi è stato creato, per esempio, Lugano Network, che è una cosa di cui è un po' fumosa, di cui non si sa molto bene. Anche lo stesso di Castero Giovani Eventi, la commissione gestione del municipio del Consiglio Comunale Lugano si era un po' arrabbiata perché diceva: ma insomma, qui non si capisce, questo gestisce un pacco di soldi, ma in che modo non lo sappiamo. E quindi hanno sollevato numerose critiche al dicastero dicendo: fateci capire come gestite tutti questi soldi. Va detto che inoltre, sempre Chiapparino, gestisce la Sotel. La Sotel è un'agenzia interinale del comune di Lugano. Stando a quanto dicono loro stessi, ci sono 1500 iscritti all'interno di questa agenzia interinale del comune di Lugano. 1500 è da fare invidia alla Deco di Lugano, questo è sicuro, è un bacino interessante. E comunque si capisce che, cioè, quando gestisci 15 milioni, 4 milioni per dicastero, una Sotel che amministra 1500 persone, ha 12 posti fissi, 10 a tempo parziale, 2 apprendisti, stai gestendo quello che dovrebbe essere non un semplice dicastero, ma probabilmente dovrebbe essere quasi un municipale, insomma non è che stai gestendo noccioline, hai un luogo di potere in cui gestisci una parte di soldi importante, in cui dai lavoro, e questo sappiamo l'importanza che può avere per dare lavoro. E vabbè, per tornare a cosa lui aveva organizzato, per esempio col Lugano Network, è stato organizzato l'anno scorso un ciclo di 5 conferenze con 6 oratori. Niente di male, il titolo era Uomini che fanno impresa. Ecco, i 6 oratori, guarda caso, sono tutti di CL. Tutti i professori emerito, abbiamo Luca Doninelli, che si dichiari Comunione di Liberazione da quando ha 14 anni, il presidente e il caporedattore della rivista Vita, che è un altro organismo molto importante di area cattolica, però gestito in buona parte da loro. Abbiamo Carlo Masseroli, assessore all'urbanistica del Comune di Milano. Abbiamo Mauro Magatti, preside della Facoltà di Sociologia della Cattolica di Milano, cioè non 3-4 personaggi di basso e scarto livello. Sarebbe interessante capire, perché è stato l'unico ciclo di conferenze organizzato da Lugano Network, sarebbe interessante sapere quanto è costato alla collettività questo ciclo di conferenze con un unico referente ideologico, se si vuol dire. Ecco, cioè io ho fatto un elenco, più o meno sono una ventina di persone che occupano posti centrali all'interno, cioè diciamo relativamente di potere all'interno dell'apparato ticinese. Ripeto, la domanda di capire come e in che modo influenzino direttamente non è così semplice da capire. È perlomeno singolare che, non so, Salvadè assuma Chiapparino che CL, il posto di Morisoli che occupava, che anche lui era capo del lavoro, viene preso da un altro che è di area CL, perché all'università c'è tutto questo susseguirsi di personaggi CL. Io sinceramente non ho le prove per poter dire che sia importante. Viene il dubbio che a parità di curriculum, di qualità e di competenze, il fatto di aderire o meno a CL abbia un'influenza e pesi nella scelta definitiva delle persone. Questo è un dubbio che mi rimane, non ho, come detto, le prove. Però, partendo dall'origine del movimento e del perché abbiano scelto di insediarsi in alcune attività, soprattutto in alcuni ambiti professionali, ognuno, insomma, lascio a voi la risposta da dare a se ci sia una sorta o meno di influsso da parte dei CL. Io sinceramente avrei già finito qua, nel senso che secondo me era importante dare una panoramica di queste persone che occupano questi posti all'interno di amministrazione pubblica e privata, giusto per dare un'idea di come funzionino. Io mi fermerei qui perché appunto non voglio annoiare più di tanto. C'era lui e lui. Quelli che hai presentato praticamente tutti sono di Lugano, ma nel resto del Ticino invece. E abbiamo nel campo privato, ce ne sono diversi. Non so, abbiamo Luigi Mattei, che è un famoso avvocato che occupa dei ruoli importanti. Certo, no, è una forma di potere che ognuno usa. È vero che secondo me nei liberali è più facile che passino su degli incompetenti, perché nei CL, ripeto, questa cosa è importante, sono molto abili nel loro lavoro, sono molto dotati. Sì. Infatti a me rimane il dubbio, è pur vero che anche nella sanità, per esempio, i CL, soprattutto l'ospedale italiano, se ne sono avuti diversi. Sì. Però adesso lavoro per i socialisti, se sono sei socialista non lo so se puoi entrare o meno. Chiaro, è chiaro che appunto la domanda è un po' allora perché questa lotta per il potere, perché ognuno la fa, ogni gruppo la fa per cercare di arrivare, di occupare lui delle posizioni, di poter influenzare. Questo per me è una risposta alla domanda in che modo loro influenzano. È chiaro che l'obiettivo è arrivare su per poter condizionare tu e dare delle informazioni. Cioè, se non ero così, mi avrebbero influenzavano a fare queste cose uscenti, tra virgolette, uscenti, perché no, su un certo aspetto ti creano di quei sensi di colpa, di quei stati d'animo, veramente, però non mi hanno mai capito. No, no, io non ho distinzione, per me il potere sono tutti uguali, massoni, liberali o chi che siano, però cerco di capire perché, cioè cerco di essere almeno cosciente che loro esistono e che occupano le posizioni di potere. In questo caso i CL lo occupano e sono veramente minoritari, sono 500-600 persone, quindi come riescono ad occupare questi posti in maniera così efficace? Il fatto era che questo tio che è un gruppo che vuole il potere, che sia poi politico o meno, fanno le stesse cose, in Ticino, ma credo in tutto il mondo è così. Se il posto è per i liberali, verrà dato liberale, e i ricellini fanno la stessa cosa. Ora avete già discusso il colore per fuori, e l'ho risolto, nel senso che ogni partito, nel senso generale del termine, vuole prendere il potere. Drammatico, ma non tutti. Un'altra cosa era la parte sociosanitaria, soprattutto sociale, è stata detta, no, dalla biblioteca, oggi mi sembra molto importante, perché tanti istituti sociali sono in mani cerchi. Dopo tu hai parlato di comunicazione e di educazione, mi sembra che è. Sì, no, è vero che... E hanno un sacco di istituti, i loro direttori sono Cellini. È così. Ma il pubblico, diciamo, nel livello di ospedali e così, infatti, a parte Salvadecchio, o Medico, così, mi sorprendeva di non vedere, insomma, gente della rete ospedaliera. Ci sono medici che sono... che lavorano per l'ente ospedaliero, che sono dichiaratamente di CL. E li ritroviamo per esempio anche nel campo della ginecologia e pediatria, insomma. Sì. E lì si pongono i problemi grossi per una persona che non so, volesse fare semplicemente la miocentesi o fare, magari per un motivo o per l'altro, abortire, ti scontri di fronte a un problema serio. Conviene sceglierselo bene il proprio medico in caso che si vogliano poter fare queste cose, la miocentesi, per dire. Ed è vero che ci sono, ce ne sono altri che non lo sono, ecco. Non è che hanno il potere assoluto, questo va detto, però sì, sì, non è che... perfettamente d'accordo, nel senso che per esempio i CL normalmente lo dicono, io sono un CL anche se occupo una posizione di potere. Peggio sono i massoni, salvo giudici o altri, questi per loro per segreto non te lo dicono, eppure occupano un bel po' di posizioni di potere anche loro. Sappiamo che in Ticino meno male hanno, qua a Lugano si dice che il potere sono i massoni insieme ai CL, insomma. Però, ecco, loro sono più subdoli, nel senso che non si professano, non lo dicono che lo sono. I CL va reso atto che loro, meno male, alla fine lo scopri, cioè te lo dicono anche, non è che hanno... Boh, se io lo chiedi, non so, io... Lo scopri, ma non te lo dicono quasi mai, tu citavi prima Nayaretti, personalmente gli ho chiesto direttamente, tu sei un CL? Assolutamente no. Un altro... in cui nessuno è cosciente che sia un CL, è quello che abbiamo adesso a capo dell'informazione della RSI, cadetti, che tutti pensano che sia un socialista. Per esempio Fazioli, lui era un liberale, sì. Di cui è CL, quindi assolutamente peggio dei massoni, molto peggio dei massoni, in più la loro forza ideologica è si estende per oltre i confini, cioè dall'Italia, la Svizzera, in tutto il mondo, è molto più nefasta, ce l'ha dimostrato Berlusconi, dei massoni. A parte poi vabbè, i massoni è una cosa molto, molto complessa, perché sappiamo che nelle massonerie ci sono varie forme da agire, eccetera. Il CL è molto più spietato e assolutamente, ripeto, non si manifesta. E quindi non è assolutamente vero che la ricambia si CL, a parte il più ingenuo. Fazioli l'ha messo. Fazioli l'ha messo. È molto pericoloso perché l'informazione che ci dà è assolutamente inaccettabile. È disinformazione. Guarda, Fazioli era uno di quei pochi che faceva le conferenze gratis. Ma lascia perdere queste cose, non aveva bisogno di qualche soldino in più, che c'entra? Io sto parlando, dobbiamo ma lascia perdere questi sono questo buonismo. Scusate che non ci interessa assolutamente se facciamo una cosa gratis. Aspetta, scusa che pochi buoni. Io sono pagato a Fazioli, posso dire una cosa? Una volta magari almeno si sente. E lei che è intervenuta? Sì, ma voglio dire il professor Ambrosio si levava, non sentiamo niente. Vabbè. Pagato a Fazioli, posso dire che non è vero che lui è poi appunto è definito scellino, ma è stato costretto a dirlo perché durante una guerra fu visto in processione e venne in redazione a dire di tagliarlo fuori perché non voleva essere visto, e noi invece abbiamo deciso che era così, perché in fin dei conti non puoi tagliare fuori l'immagine e incollarla quando poi hai praticamente il sistema elettronico, e da lì, e poi in più oltretutto appunto aveva anche tutta una serie di interessi al di fuori di quello che era. Seconda cosa è che la fucina della gran parte dei giornalisti che poi sono arrivati in televisione è il popolo. Infatti Boccaletti e poi un altro, adesso mi sfugge il nome, sono tutti usciti da lì un poco che la direzione passò a Rosa, mentre appunto quando era in mano a Silvano Toppi arrivavano i giornalisti della News di calibro. Legate a un certo tipo di mentalità, molti. Volevo dire che effettivamente secondo me loro sono estremamente pericolosi quando sono, hanno la possibilità di agire, influenzare il resto della società appunto con le loro idee. Io non sapevo per esempio che Luigini stasera lo scopre, che probabilmente è il valore di CL, però effettivamente è una persona, non lo conosciamo benissimo, al Molino, della quale avremmo potuto dubitarne tanto tempo fa, però secondo me per esempio l'agire di un Perugini in quel ruolo lì è estremamente pericoloso cioè per la società, no? Per come lui ha portato avanti questo suo appunto, lavoro di crociata, proprio è stata una crociata la sua, noi l'abbiamo definita così tante volte, no? E quindi proprio aderente al massimo a quello che può essere appunto il ruolo di uccellino. C'è anche un giudice che fa parte dei CL alla Corte delle Reclame dei Penali, si chiama Mauro Mini, anche lui fa parte di questa. Secondo me sono davvero. Mauro Mini. Lo trovi dentro di Mauro Mini. In quelle fondazioni che lo trovi. No, comunque estremamente pericoloso, perché il lavoro di un Perugini, lui fatto secondo queste idee, appunto, sue convinzioni da crociata, appunto ha portato quello che si è visto negli ultimi anni anche a Lugano, appunto chiudere tutti i canapazzi, sua visione, vabbè, adesso non entriamo nel specifico, però droghe pesanti, droghe leggere, fare la crociata contro la marijuana, lasci, chiudere i canapai, nel senso che è proprio una visione. E quindi secondo me è messo in questi ruoli qua, come può essere anche un Fazioli che ha le sue musiche, un grande spazio alla televisione, c'è stata gente che lo segue, no? Quindi moraleggiante, no? Che ti costruisce un po' l'idea di quello da seguire, no? Quello che è giusto fare, quello che non è giusto fare. In questo senso è molto pericoloso. Sinceramente non so dare una risposta a questo. Guarda, è importante che se dovesse arrivare a quel concorso, diciamo, un punto di partenza per essere obiettivo. Certo. Se invece non c'è il concorso, allora sì. È che no, però non è. È un po' strana, lo statuto dell'Università della Svizzera Italiana è veramente singolare, inteso è un concetto molto caro ai cellini, ossia la scuola libera. Loro intendono come scuola libera nel senso che non sia la scuola pubblica, ma la scuola, l'autonomia della scuola di poter decidere lei cosa fare autonomamente. E questo è il Ticino, cioè l'Università della Svizzera Italiana, c'è sì il ruolo dello Stato, però solamente che caccia i soldi, poi è completamente il consiglio di fondazione che decide il tutto. È singolare rispetto a tutti gli altri istituti, non solo hanno la retta più alta di tutta la Svizzera, ma in più hanno anche questa struttura che è molto singolare, nel senso è intesa come la intendono Giussani, uno dei cavalli di battaglia sua era la scuola libera. Loro intendono che appunto un po' nell'ottica di lo Stato non deve essere onnipresente, non ci vuole la scuola pubblica, ci vuole i genitori che possono mandare i figli dove vogliono con il loro, col ticket, col buono scuola da mandare dove vuoi, e in buona parte finisce da loro, perché loro sono i più presenti, come nella sanità privata in Ticino. Perché la sanità privata è così forte in Ticino ed è soprattutto collegata alla Chiesa? Perché storicamente era la Chiesa che si occupava dei poverelli facendo la carità, e lo stesso riguardava l'educazione, faceva così, e quindi storicamente loro hanno riuscito hanno occupato quelle aree lì. Adesso siamo arrivati che nella sanità lo Stato finanzia le cliniche private al 50%. No, no, tutta l'intera università. La teologia è privata. Sì, la teologia, ma anche il resto è privato. Anche il resto. tutto sotto la fondazione. Per esempio, ecco, come riescono a influire, non so, per esempio teologia, ecco, una che aveva fatto scalpore era quando c'è stato il cambio di direttore, mi sembra si chiamava Abelardo, qualcosa del genere, arrivava un tale Gerosa come rettore nuovo, ha inaugurato l'anno accademico invitando niente meno che Pio Laghi. Pio Laghi era il nunzio apostolico durante l'Argentina, durante la dittatura, accusato dalle madri di Maio di essere ben complice e carnefice di quello che stava succedendo. E quel il rettore precedente non solo è bastato a invitare quello che aveva benedetto quelli che buttavano fuori dall'aereo i desaparecidos, ma in più in quell'anno lì era stato intervistato il rettore precedente e lui diceva che Franco, il dittatore Franco della Spagna, era stato un buon cristiano, grazie a lui aveva preservato la cristianità. Questo per dire quanto la facoltà di teologia di Lugano sia abbastanza intrisa di valori integralisti e fondamentali. Però di riflesso lo troviamo anche nella scienza della comunicazione. Quel signore Edo Rigotti che ho fatto vedere prima, lui ha usato come esempio nelle dispense date ai suoi allievi, era è un comunista ma onesto, come frase simbolo di esempio. Cioè, in un modo o nell'altro influiscono, questo su quello appunto penso che siamo d'accordo. Io purtroppo come giornalista non riesco a portare le prove, ecco, questo è l'interessante del filmato che si vedeva lui che passava, ecco, lì ha tentato di manipolare. Però io nel concreto non è che riesco a dire Fazioli ha censurato un tot di argomenti o ha fatto l'altro, o Herbert sta facendo la stessa cosa, censura. Chiaro che hanno la capacità di poter indirizzare o perlomeno orientare, poi non lo fanno in maniera troppo pacchiana perché sennò le critiche sono veloci, però è chiaro che quando l'obiettivo è prendere un posto di potere è per esercitarlo nel tuo interesse. E questo ma anch'io come giornalista in base alle mie convinzioni mi muovo in base alle mie convinzioni, costruisco l'articolo, scelgo il tema e quello che è, però e questo credo che lo faccia anche un altro, credo sia inevitabile. Però se perlomeno noi siamo coscienti che queste persone si occupano in questo modo e fanno coi soldi pubblici soprattutto, perché questa è la cosa più grave, beh, io come cittadino voglio essere informato come stai spendendo i miei soldi, per che tipo di informazioni mi propini e cosa mi interessa. Ecco. Tu controlli, né la scuola né le informazioni. Non fai parte di una setta. Quindi sono talebani, chiamiamoli per questo. Sì, ma sai cosa? Io per esempio ho avuto i quattro fondatori del CL alla Scuola Cantonale di Commercio, ho avuto Albino Sgragen, Flavio Schira, Ortelli Pietro, che era il capo cioè il rappresentante dei docenti dell'OCST, e il marito della Lepori, della Mimmo Bonetti Lepori. Ed erano persone, devo dire, molto, anche Luigi Colombo, che era l'ecchio direttore che insegnava tedesco, ed erano persone. Io ero poco politicizzato a quell'epoca, dai metodi scolastici molto innovativi, molto, erano anche affabili, molto simpatici. Poi col tempo sono andato a rivedermi cosa Sgragen mi proponeva come programmi di storia e ho capito la differenza, ma perché dopo ho studiato all'università ho capito i suoi programmi. Se facevo storia con Pino Sergi probabilmente facevo un'altra storia. È chiaro che ognuno influisce in quel modo, no? Però io ragazzino studiavo, imparavo quello che mi diceva, soprattutto era medioevo e vabbè, e l'illuminismo visto come la catastrofe quasi. Poi mi sono reso conto col tempo, però all'inizio tu sei lì e te l'assorbisci, ecco, e se non hai gli strumenti tu per poter perlomeno sapere che lui è una persona che mi dà un certo tipo di informazione, perché a lui interessa dare quell'informazione, ecco, io credo che quello almeno debbo sapere come cittadino, come allievo, come persona, ecco, come utente. Vorrei fare una annotazione, perché mi sono ricordato di parlarne prima, e poi qualcuno ha citato più volte l'organizzazione di Opus Dei, no? E c'è una cosa singolare, che Opus Dei è stata creata nel 28 in Spagna da José María Escrivá de Balaguer, che poi è diventato uno dei... Lo hanno beatificato nel 92 e canonizzato nel 2002. Questo individuo è stato uno dei sostenitori poi di Francisco Franco. E c'è una cosa interessante: nel 1941, quando è stata invasa l'Unione Sovietica, di gloriosa memoria, quando è stata invasa l'Unione Sovietica, hanno creato la Legione Azzurra. Gli spagnoli non hanno partecipato alla guerra, ma hanno creato la Legione Azzurra, che era formata in gran parte dagli aderenti a Opus Dei. Opus Dei è stata poi riconosciuta nel 47 e nel 50 in due movimenti distinti da quell'ineffabile individuo che si chiamava Eugenio Pacelli, al secolo col nome di Pio XII, il papa amico dei regimi di destra. E poi le cose si sono un po' fermate lì. C'è stato il periodo di Giovanni XXIII, che era un emerito pasticcione, e poi è venuto il povero, come si chiamava, il Montini, Paolo VI, che era un uomo di assoluta incapacità, di indecisione. Finalmente poi c'è stato quel poveretto che è durato 30 giorni, ed è arrivato l'uomo, il polacco, che ha recuperato Opus Dei, dandole la qualità di prelatura personale, creando cioè una diocesi senza territorio, con stretta dipendenza dal Papa. Nel 1982, che è lo stesso anno in cui, curiosa è la coincidenza, che è lo stesso anno in cui anche CL è diventata una formazione ecclesiastica, clericale, insomma, bisogna dire, di diritto pontificio. E siamo poi in quel tempo in cui il Corecco forse era ancora a preparare il nuovo codice di diritto canonico, prima di essere poi scelto dal Papa per diventare il successore del povero, come si chiama, Giatoni. Sì. Forse c'è una cosa che è curiosa, è che il Toni aveva poi dovuto dimissionare, non so più se nel 83-84, aveva dovuto dimissionare per ragioni un po' particolari, e anche perché il suo successore si era dato da fare per diffondere delle voci su delle stranezze che capitavano in curia, stranezze che si riferivano al comportamento del vescovo un po', diciamo, un po' particolare, perché aveva avuto la tendenza a spogliarsi dei suoi abiti, forse perché gli pesavano troppo, e lì hanno dato una connotazione di natura sessuale a questo suo rifiuto dell'abito vescovile. Il povero Toni era poi stato mandato in vacanza giù nella casa San Giuseppe in Liguria, che è la casa del vescovo, a San Bartolomeo di Cerro, sì. Ecco, e poi appunto il Corecco, dopo aver creato le condizioni di far partire il Toni, è diventato poi lui vescovo. È un personaggio. Un'altra cosa, sì, si è parlato molto della massoneria qui, paragonandola a CL, che ha un'organizzazione così di infiltrazione capillare. Ne ho sentito dal nostro amico qui che CL ha 500-600 membri. Lo dice Fazioli. Eccolo, 500-600 membri. È una bella quantità, perché la massoneria, nelle sue 5 logge, io credo che non arrivi a questa quantità. Io credo la loggia più grossa sia il Dovere, e poi la seconda in ordine di importanza mi pare che sia la Breno Bertoni, la terza deve essere non so se la Helvetica o la Veritas, e poi, cioè, la terza veramente era stata in ordine di tempo la Signa Hominis di cui era stato fra l'altro venerabile, un amico carissimo e membro dei liberi pensatori, Vinicio Salati. Nella massoneria c'è un po' spazio per tutto e ci sono purtroppo dei grandi mascalzoni lì dentro, anche perché essendo un'organizzazione che ha assunto un potere importante, naturalmente ha attirato una banda di opportunisti. Questo collegamento massoni CL è emerso con le indagini attualmente in corso con JTAG in galera in Italia per il movimento Comunione e Liberazione sui fondi appunto della clinica private italiane della Lombardia. E magari può essere interessante, c'è report che ha fatto e da noi due fiduciari indagati per questa cosa sono uno massone, uno era un venerabile di una loggia, Sandro Fegno, che condivideva insieme a quella Pierangelo D'Accò e Grenci, altro titolare di una fiduciaria qua a Lugano in via Balestra, quindi appena qua fuori, che gestivano tutti i fondi occulti di quelli per cui sono adesso accusati in Italia. Però c'è un'altra cosa interessante, proprio per dire il legame e quanto è vero, si dice che sono piuttosto reticenti, insomma, nello sbilanciarsi, insomma. C'è il famoso conto Paiolo, che era un conto in cui era la BSI, erano stati depositati dei fondi occulti, appunto, vicino a Comunione e Liberazione, che erano stati depositati qua in banca svizzera, alla BSI. E la cosa singolare era che Alberto Perego, che è uno di quelli che vive con formigoni come Memores Dominis, che sono queste case in cui vivono questi cellini, lui è il suo capocasa e il secondo di cui mi sfugge il nome, avevano creato questo conto Paiolo, che era appunto dove facevano confluire tutti i fondi occulti. E questo conto c'era scritto nello statuto, dimostrato ai giornalisti italiani, che se dovevano morire questi due, Alberto Perego e l'altro di cui adesso mi sfugge, i soldi sarebbero andati ai Memores Dominus di Massagno, ossia ai cellini di Lugano. Questo c'è scritto nello statuto. Nel caso che per sfiga muoiono tutti e due insieme o per volere divino, i soldi finivano ai Memores Dominus, di cui è l'esponente principale Claudio Mesognani. Report, che ha fatto una lodevole inchiesta, ecco, c'è, se volete, la parte, vi faccio vedere due minuti sul Ticino, ed è divertente per vedere come si comportano i nostri locali qua. Sembra una società di stile un po' mafioso, non so niente, non ho visto niente. Lo statuto della Fondazione Memalfa prevedeva che alla morte di entrambi i beneficiari, Perego e Rota, tutto il patrimonio fosse assegnato all'associazione Memores di Massagno, un sobborgo di Lugano. Allo stesso indirizzo abiterebbe Claudio Mesognat, direttore del quotidiano della Curia e leader di CL in Ticino. Abito semplicemente lì. Ma come nella sede? Ma come nessuno vi garantisco che se non leggendo sui giornali ha saputo che c'era questa roba qui, l'abbiamo letto sui giornali. E quindi qui nessuno ha messo tutto un cappello di roba qui. E che dovete venire qui a fare una fotografia qui in questa piazza? Ma che stanno cercando via Solaro 13. Questo è via Solaro? Sì. 13? Sì. Ma luogo pubblico. La piazza? Sì. Fotografie? Sì, sì. Le case? Qui è una strada pubblica. Beh, qui però per la mia è una casa che dà su una strada pubblica. È possibile che voi veniate in Svizzera a fare delle riprese? Avete l'autorizzazione? Del governo svizzero? No, sì, qui c'è l'associazione Memores. No, non c'è l'associazione Memores, è un indirizzo vecchio. Ci abita Mesognat, Claudio Mesognat. No, non abita qui, c'è un indirizzo. Ah no, ma è detto lui che abita qua, in Solari. Lo sacro indirizzo dove i Memores italiani avevano deciso di far recapitare il patrimonio della Fondazione Memalfa, lo facciamo comunque. Va bene, sono qui a fare il filmato, ciao. Allora, per un attimo questo tolgo. Ma perché? Perché sono uscita. Con cosa? Con questa bucaletta. È praticamente dal 2006 che non c'è più, anzi, o prima. Anche la vita qua, fino. Anche la memo. Una memo. La vita qua? Fino alla memo. Una domestica? Ha una vita qua. È una domestica o vita qua? Non ho l'aria della domestica, quella della professoressa universitaria. All'Università di Lugano, sul tema fede e lavoro, ha appena finito di parlare uno dei capi storici di CL, Giancarlo Cesare. Grazie di cuore. Grazie. Sono qua e mi chiedo se lei mi può aiutare, perché a un certo punto viene fondata una fondazione in Liechtenstein che si chiama Fondazione Memalfa. Fondazione Memalfa Vaduz Liechtenstein, fondata da Fabrizio Rotta e Alberto Perri. Non la conosco. E i beneficiari. Perché non la conosco? No, ma i beneficiari erano loro due, alla morte loro due c'era scritto nell'atto costitutivo. No, c'era scritto che tutto sarebbe passato il patrimonio alla Fondazione Memores di Massagno, cioè qui a Lugano, via Solaro 13. Dove c'è Claudio Mesoniano? Posso chiedere se conosce o meno Claudio Mesoniano? Conosco tutti, conosco anche Rota, conosco tutti gli altri, ma non so niente di questa cosa. È infastidito da quello che sta succedendo, anche a livello mediatico magari? Beh, mica poco, cioè ci sta trattando come una banda di 3.000 anni. Ecco, se volete andare a rivedere la puntata dei report, lì sono riusciti a smascherare effettivamente il potere in Lombardia, però c'è la magistratura e c'è tutto un altro potere, cioè un'altra capacità di poter indagare. Qui è un po' più. Volevo chiedere qui appunto della magistratura se sai come la formazione. Perché per esempio in Pettura si vocifera che un trattore che si occupa di divorzi ci è, però io non so se voi avete degli scontri. Sinceramente. Ci deve essere un pretore nella procura qua a Lugano che si occupa dei divorzi, se sia cellino o meno. E questo. E l'altra cosa che volevo chiedere, a me non è chiaro come riescono a conciliare il punto della povertà con questi soldi. Il voto. Cioè non capisco come si riesca a conciliare il voto della povertà con questa stracca di soldi. Allora, io non so se il Giussani questo mi piacerebbe capire come si riesce a conciliare una cosa del genere. Nella puntata di report il giornalista chiede a un famoso cellino come si riesca il voto della povertà, come riesca a conciliarlo Formigoni con la villa in Sardegna, per esempio, con le uscite in yacht e tutto quel che sia. E il cellino dice: è una questione del rapporto che tu hai con la villa. Se la villa non ti interessa e te la portano via, fa niente, non hai un attaccamento della ricchezza. Questa è la giustificazione che dà, e il tipo sembra convinto, però questa è la versione. Però intanto lavorano per averla. D'altronde San Valera quelli che partiti di Sergio Palestra. Sì. E anche era l'ex suocero di Maximiliano Herber, che è a capo adesso della. Per dire, si resta in famiglia. Povero San Valdense. Internazionale ormai. Ci sono dei paralleli. Beh. Ma CL ormai è un'associazione che supera i confini, Non ha confini CL, Soprattutto attraverso la Compagnia delle Opere, sono ramificati ovunque, proprio In Sud America anche. Loro sono più attivi, a meno che mi consta, a livello internazionale con la Compagnia delle Opere, quello senz'altro occupano veramente, cioè ho quanti miliardi di gestione, 38 miliardi di, non te li fai con quattro ditarelle, sono veramente un colosso mondiale. Una rete, sì. Sono presenti in 18 paesi come Compagnia delle Opere, quello lo so per certo. CL sinceramente non so, proprio perché hanno questa cosa di nascondersi un po', di sono 25, quando si trovano questi 500, non c'è un evento particolare che li caratterizza, per cui io accidentalmente sono finito su sì, ma l'Epine non lo so, ma per esempio so che uno dei loro siti internet, che si chiama Centro Culturale della Svizzera Italiana, mi sembra che sia qualcosa del genere, lì c'era l'agenda con su, per esempio, la sala del cinema Cittadella o Iride, riservata da Comunione Liberazione, il giorno dopo riservata da Azione Cattolica, riservata da... sarebbe molto interessante, era un profilo di giornalista. Purtroppo non c'era l'agenda nuova, era datata al 2011, ma... affinare un po' il lavoro che stai facendo, perché immagino sì. Adesso sarebbe in progressione, nel senso, spero, magari tra 2 o 3 anni possiamo trovare informazioni. Sarebbe male andare a capire un po' come si muovono, anche per capire veramente chi sono, per allargare un po' la scelta delle coscienze. Sì, sarebbe... cioè, un mio amico giornalista è andato a un funerale di un massone per vedere chi si mette i guantini bianchi, perché i massoni, quando muore un confraterno, devono mettersi i guantini bianchi. Allora lui, per andare a vedere chi fossero questi qua, perché se no non lo sai, è andato a vedere il funerale. Potrei fare anch'io magari, però non so bene cosa fanno loro, sì, come riti. In realtà quelli che portano i guantini bianchi sono quelli che fanno la catena con il defunto, e quindi non tutti i presenti sono lì a fare la catena. Io mi ricordo per esempio di una catena che è stata fatta quando è morto nell'82 un personaggio famoso, Camillo Bariffi, che era uno dei referenti di quelle organizzazioni che vanno in pantaloncini corti, come si chiamano, i Boy Scout, quelle faccende lì. Ed era un uomo di scuola, un uomo importante, è stato venerabile, il Camillo, della loggia massonica Il Dovere, per un anno solo, nel 31. Poi dopo si era messo un po' in sonno, quello che io so, e quando abbiamo pubblicato Libero Pensiero, lui mi ha avvicinato, mi ha detto: ma guarda che lì c'è un errore, perché c'era già una pubblicazione una volta, eccetera. Abbiamo conversato, poi poco dopo poveretto è morto, perché un cane ha voluto fargli le feste, l'ha fatto cadere, e tra che in una settimana se n'è andato, ma era già molto anziano. Bene. E quella volta lì hanno fatto la catena. Mi ricordo che il dottor Ghigia, che è stato anche è presidente dei Liberi Pensatori, era diciamo il capo della cerimonia. Poi c'erano Orazio Schau, che è stato gran maestro della loggia svizzera alpina, e poi altri che erano lì, non so, potrei anche fare i nomi, adesso non ha grande importanza, però erano lì. Fanno la catena, poi la rompono, insomma c'è una sorta di quale rituale mistico, magico, perché anche i massoni sono un po' una combricola dove c'è una parte che è attaccata alle questioni iniziatiche, liturgiche, eccetera, ed è la parte, diciamo, aristocratica, e poi c'è una parte democratica che, dove c'è spazio anche per gli atei. Il dottor Ghigia era dichiaratamente ateo, anche se si dice che nella loggia massonica non c'è spazio per gli atei. Non è vero, perché le costituzioni di Anderson del 700 e quel che è, dicono che non può far parte della massoneria, un libertino irreligioso e uno stupido ateo. Ma ci sono anche gli atei che stupidi non sono. Questo è. Comunque c'è, i massoni non sono mica tutti uguali. E poi quelli che erano entrati una volta, beh, c'erano delle personalità, c'erano delle persone veramente degne. Poi naturalmente sono anche entrati altri. È quello che io li conosco dall'esterno e io non faccio parte, non sarei neanche mai stato ammesso per i miei precedenti politici. Quindi, ecco, però li conosco abbastanza bene perché ne ho frequentati alcuni e alcuni sono stati membri dell'Associazione dei Liberi Pensatori. Il dottor Ghigia, tanto per dirne uno, Orazio Schaub, Vinicio Salati e persino anche un tipaccio che era Carlo Chiesa, che era del 32° grado, che ho conosciuto, sì. Era un filo fascista oltretutto, pace all'anima sua. È pericoloso, perché erano tante queste cose. Allora, chi nella scuola è confrontato con un docente cielino, sa come si rende conto di come viene presentata la storia, per esempio, no? Come vengono presentati alcuni, non so, in italiano, come si parla di certe cose, no? Oppure nell'economia, come vengono tornati in Lombardia, abbiamo avuto testimonianza adesso come vengono deviati certi fondi che vengono poi utilizzati per questi scopi, oppure in politica, o nel campo di informazione soprattutto, il campo di informazione è vergognoso come vengono implementate alcune cose dai strumenti che lì. Nel mondo del volontariato hanno avuto delle esperienze incredibili, tutto quello che è tardato religioso, tardato cattolico viene più dato e il resto viene dimenticato soprattutto. Cioè, nella sanità, non si sa come si influenza appunto il lavoro e i pazienti. Tengo, penso che sia importante dire perché CL è una setta naturalmente e perché è pericoloso. Sì, beh, ma CL è pericolosa anche perché vuole condizionare la morale. Le norme di comportamento delle persone, stabilire che sono quelle della Chiesa Cattolica, quelle dei cattolici, le regole da seguire. E no, oggi non riescono più a dominare la situazione, ma stanno tentando di recuperare il terreno perso, a differenza dei massoni, perché i massoni non vogliono assolutamente imporre morale alcuna. C'è la libertà assoluta di scegliere, c'è questa differenza importante. CL e i credenti e i fideisti, quelli sì, vogliono condizionare il comportamento delle persone e anche vogliono condizionare le scelte nella bioetica, nella concezione della vita, cose che abbiamo visto, no? Per esempio sull'eutanasia o su questi problemi, ecco. Bene, insomma. Ultimamente c'era un articolo sul giornale dove diceva che la religione oggi, dal punto di vista mentale, dove si vede proprio così, non serve più. L'aspetto religioso molto, influenza molto meno la gente. Influenza molto la religione meno. Non è più come. Per fortuna, per sì, fortuna, sì. Però. Però quando. È proprio calata, oggi è proprio una cultura, non è che influenza come una volta, monopolizza come una volta. Penso di pensare che gli Stati Uniti oggi sono quello che c'è, non si immagina più anni che ci sia, forse da 40 3%, no, il 13% credo degli statunitensi crede nell'evoluzionismo, tutto il resto crede nella creazione di la religione che ha influenza ancora tantissimo. Cioè, spiegare la differenza sulla ignoranza. Che il 13% crede che l'uomo è quello che insomma ci dice la scienza, la scimmia, eccetera, eccetera. L'80% invece crede che sia stato Adamo e Eva. Sono creazionisti, sì. C'è una cosa. E questa è l'ignoranza. Quindi non è vero che la religione ha influenza. Che sono l'estremo popolo occidentale. Guardando sì, l'influenza sì. Del Tea Party, però, direi che proprio in nulla non contano. Quindi, cioè, sono d'accordo con sì, lui, influenzano purtroppo pesantemente. In America, però, c'è un 20% di persone che si dichiarano agnostiche. C'è un 20%, e bisogna dire invece che il congresso, che è fatto da 100 senatori e 430 deputati, è composto nella stragrande maggioranza da giudeo-cristiani, una bella fetta di ebrei, una buona fetta di cattolici e poi di protestanti, addirittura qualche mormone che non si sa bene come situarli, e c'è una sola, mi pare che si è dichiarata atea, una donna, e poi un'altra che poi 4-5 che hanno detto che loro sono, ecco, fuori dalle organizzazioni religiose. Fate il conto su 500 in totale, 530 persone, se ne salvano 4-5 salvano, virgola, voglio dire. No. Ecco. E loro sono veramente condizionati. Uno che si presenta come ateo non ha molte chance di essere eletto, anzi uno che c'era prima non è poi stato rieletto. Eppure nello stato, mi pare, dell'Oregon, la maggioranza delle, in quello stato lì la maggioranza delle persone è areligiosa. Infatti l'unico socialista degli Stati Uniti d'America è il senatore dell'Oregon. Beh, in quel che e quante cose che si possono sapere, sì. Guardando, sì. Solo una piccola cosa sulla quale io sono piuttosto in dubbio. Dicevo prima che loro presentano comunque persone molto capaci. Beh, qualche riserva però, no? Perché dire che nei concorsi ha sempre vinto il più capace cielino rispetto agli altri che in fondo non valevano almeno altrettanto, contraddetto dal fatto che si dice, per esempio, il più grande conservatorio d'Italia, quello di Milano, non ha una cattedra sola che non sia in mano CL. Allora è possibile che in un paese di artisti non ci sia uno che sappia suonare il violino meglio di un cellino? No, non è che volevo dire quello, però volevo dire che sarebbe sbagliato prenderli per degli incapaci, ecco, semplicemente per logica clientelare, che semplicemente finiscono a quel posto perché appartengono a un determinato gruppo. Questo io non me la sento di condividerla. Penso che sono delle persone che sanno fare il loro mestiere, dopo bene o male ognuno può giudicarlo, però sul fatto che poi io ho seri dubbi sul fatto che ci sia un'infiltrazione così forte. So che, per esempio, ecco, un altro settore che non ho citato è la DFA, quella che prima era in mano, quella che è la formazione per i docenti, prima era in mano a una direttrice chiaramente di formazione area cattolica, anche lì mi dicono che l'area ricerca e l'area siano collegabili a persone di CL, però in questo senso adesso è arrivato qualcun altro come direttore, vedremo cosa succede, come evolve la cosa. È chiaro che dove arrivano si piazza uno e poi successivamente arrivano gli altri capetti uguale. Quello sono perfettamente d'accordo, però sarebbe sbagliato davvero pensare in una lotta, cioè considerarli come degli imbranati, cioè degli, assolutamente in quel posto lì per degli incapaci. Io non credo che siano così. Lo stesso Herbert, per quanto io non condivida nulla di quello che faccia come quotidiano, quel che sia, credo che non sia possibile definirlo un incompetente totale del mestiere di giornalista. Fazioso, ma quello anch'io mi definisco fazioso, cioè partigiano, nel senso che io faccio quello che è, credo in base alla mia convinzione. Figuriamoci questi che poi hanno una fede, ecco, io per... è chiaro che hanno un orientamento, su questo però farei una distinzione, perché non so, secondo me per logica clientelare sono finiti davvero degli incompetenti in certi posti che non avevano nessuna qualifica. Si vedono, non so, i consigli di amministrazione degli enti, di molti enti ticinesi, che cosa c'entrano con l'ente ospedaliero, che ci si lì Attilio Bignasca o altri a capo del CDA, quelli non c'entrano niente, quelli sono proprio lì per posto raccomandato politico, non hanno nulla. Quegli altri mi permetto di avere qualche riserva, proprio perché se no sottovaluti il tuo nemico e fai un errore gravissimo pensando che lui sia davvero un imbecille fatto e finito. Secondo me, ecco, loro si differenziano un po' per quello, però non lo so, questa è una mia opinione personale, magari sbaglio completamente, però avendoli avuti quattro, io ho avuto Albino Sgraghen, anche quello era direttore della scuola cantonale di commercio, è direttore dell'università. Io credo che nel suo lavoro andare a beccare esattamente cosa sbaglia nella gestione dell'università, non lo so, ecco, io non me la sento, non sono in grado di poterlo valutare. Credo che molti altri invece, tipo un Attilio Bignasca, CDA dell'ente ospedaliero cantonale, valga come una, ne sa meno di me probabilmente, non so, però bene, chiudiamo. Grazie. No, tu sei stato molto bravo, bravo. Ho anche la Caritas, sì, Robin Hood, tutta la banda, lo so, cercavo di rimanere più su quelle che paghiamo noi.